Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un cenno col capo e il pane bianco passa rapidamente di mano. Il soldato tedesco apre il giubbetto e ci infila a lesto quel ben di Dio. Un sorriso e ognuno per la sua strada. Sono Ubaldo, vivo a Pordenone, ho 64 anni, sono sposato e un figlio. Ora sono in pensione, dopo aver lavorato in banca. Le mie passioni sono le camminate in montagna, la bicicletta e i libri. Le 16:09 minuti sull'orologio di Davide Cioccia, che è tornato finalmente con noi, e per questo lo ringraziamo. Ieri eravamo alla Pirelli, oggi siamo ancora fuori, non ce ne facciamo mancare una, ragazzi. Se c'è qualcosa da fare, voi siete qui, c'è. Oggi siamo in diretta dalla fiera di Milano, dalla fiera di Ropero, perché c'è differenza tra la, giusto? Cioccia mi indica, non può parlare Cioccia perché è troppo vicino, entrerebbe nel microfono, ma mi indica che, perché una volta sono andato alla fiera di Milano, Milano City, invece no, qui siamo alla fiera di Ro, quella che ospiterà Alex. No, non quella, quella diciamo la fiera più importante che c'è a Milano, per Matching, che è un modo per far incontrare piccole e medie imprese e per trovare il modo per far andare avanti il lavoro di tutti quanti noi, anche speriamo, in questo momento complicato. 349-238-6666. Oggi tra l'altro noi abbiamo una storia che sembra non c'entrare, attenzione, perché Bonini, quando ne sono, come al solito, c'è un sacco di gente intorno a me, nessuno che parla. Saluto quelli che sono fuori invece, come da fuori un acquario. Dicevamo, sembra che scegliamo le puntate così, un po' a muzzo, e invece non è così, perché la puntata di oggi parla di gesti gratuiti che in realtà hanno un grandissimo valore, cioè parla di quello che in realtà il denaro non può comprare, che sostanzialmente sono i rapporti umani. E tutto sommato, in realtà, alla fine questa fiera fa quella roba lì, cioè persone che si incontrano e in qualche modo cercano di creare attività e di creare lavoro. 349-238-6666. Arrivano già dei messaggi a proposito, appunto, giustamente, delle fiere di cui ho fatto confusione in giro per Milano. Vi ricordo però che se avete voglia di mandare dei diari, lo dico perché continuano ad arrivare, e però vi chiediamo per piacere di non mandarci la fotografia del diario, altrimenti non ne usciamo più, non riusciamo a leggere la grafia dei vostri avi. Se riuscite e avete voglia di mandarci una pagina di diario per la puntata dei diari del sabato, vi prego di trascriverle in un foglio Word molto semplice, Times New Roman, e la inviate. Voi siete qui, @radio24.it. Torniamo a tanto tempo fa, torniamo a metà del secolo scorso. Questa è la storia di Ubaldo e di sua mamma, che si chiamava Libia. La primavera cominciava a farsi sentire. Era in anticipo, quel marzo del 1944. Libia stava sistemando le camere dei fratelli al secondo piano. La casa su tre piani dava alloggio alla famiglia di Antonio, che era un orafo, alla moglie Emma e ai loro cinque figli, tre maschi, Francesco, Enzo e Antonio, e due femmine, Rina e Libia. Proprio quest'ultima, Libia, stava alla finestra del secondo piano e guardava lo stretto vicolo sottostante, dove i tedeschi nascondevano, ai bombardieri nemici, le autobotti di benzina. Libia e mia madre, era mia madre, lei mi raccontava questa storia perché l'aveva colpita molto. Aveva una specie di passione per questo avvenimento, lei era una casalinga, per cui questo era un qualche cosa che usciva dagli schemi della sua vita normale. Le case vicine le une alle altre e i tetti spioventi davano un riparo sicuro agli automezzi. Quel giorno ce n'era uno solo, presidiato da due soldati. Uno seduto in cabina, l'altro appoggiato al mezzo e guardava verso i balconi di quelle abitazioni. L'uomo avrà avuto circa 30 anni, quindi non era un giovane di leva. Forse stava pensando alla sua famiglia, lasciata in Germania. Lo spicchio di cielo sopra di lui era terso, l'aria frizzante, piacevole. Non si sentivano ancora i motori degli aerei americani che in quei giorni avevano intensificato voli e bombardamenti. Chissà, forse quel giorno sarebbe potuto passare senza il fragore dello scoppio di bombe, la paura che ti secca la bocca, che ti inchioda le gambe e ti obbliga a piegare il capo e le spalle, aspettando qualcosa e sperando che non succeda. Gli occhi del ragazzo, Helmut, vagavano nel vicolo, scrutavano senza il preciso scopo di intercettare qualcosa, quando incontrarono quelli di Libia. Dopo un attimo il soldato fece cenno con le mani di portargli una bottiglia, lui non parlava italiano e lei di tedesco non capiva nemmeno una parola. A volte però le persone si comprendono e basta. Libby aveva quasi 32 anni, ma quella richiesta le procurò subito ansia. Cosa faccio? Scendo? Devo proprio farlo? Cosa vorrà? E poi? Quando si vive in tempo di guerra non c'è tanto tempo per pensare, bisogna decidere in fretta. Libia si sistemò un po' i capelli specchiandosi al vetro della finestra. Scese di corsa le scale e, trovata la bottiglia, si presentò all'uscio. Il soldato, con l'indice davanti alle labbra, le fece segno di non fare rumore. Il commilitone alla guida non doveva sapere, non doveva vedere. La donna, rapida e silenziosa, sgusciò dietro al camion dove Helmut si era già portato. Questa storia ha cominciato a raccontarmela quando ero bambino. Lei era molto brava a raccontare storie. Questa le dava una particolare sensazione, per cui sì, l'ha ripetuta diverse volte durante la sua vita, per cui anch'io l'ho memorizzata, l'ho fatta mia. Ora così mi è rimasto un po' nel cuore. Sempre senza parlare, ma anche senza reciproca diffidenza, i due si scambiarono la bottiglia vuota. Helmut aprì un rubinetto dell'autobotte, la riempì di benzina e la restituì a Libia, che rapida la nascose sotto al grembiule. Un cenno di ringraziamento con gli occhi e via a casa con quel piccolo tesoro. Emma, la mamma, intanto aveva cotto il pane con quella poca farina bianca rimasta. Le due donne si guardarono senza parlare. Libia prese due pagnotte e uscì nuovamente. Un'occhiata al vicolo per controllare la posizione dei due soldati. Quello in cabina forse dormiva, l'altro no. Un cenno col capo, il pane bianco passa rapidamente di mano, il tedesco apre il giubbetto e ci infila lesto quel ben di Dio, un sorriso e ognuno per la sua strada. Faccia simpatica, un po' perplessa Ubaldo nella foto che ci ha mandato. Ha una maglietta bianca, alle sue spalle c'è, sembra, potrebbe essere una foresta, potrebbe essere la foresta amazzonica o potrebbe essere il suo terrazzo. Ha degli occhiali scuri e un cordino colorato che tiene sugli occhiali. Anche qui potrebbe essere un velista o forse semplicemente uno che si toglie e si mette gli occhiali di frequente. Ciao Ubaldo, buongiorno. Ciao Matteo, buondì. Come stai? Questo periodo non è tanto buono. No. Un problema ad un occhio per un trapianto che non sta andando bene, ma oggi sono contento perché sono qui con voi. Benissimo, perfetto, allora siamo in due. Ubaldo, mi ricordi quanti anni hai tu, che l'ho perso dal... 64, ok, vabbè, sei un ragazzino quindi, non sei ancora in pensione. Sì, sono andato in pensione. Ah, e cosa hai fatto nella tua vita? Il bancario. Lo dici come se fosse in parte motivo di prestigio e in parte no. E in parte motivo di sofferenza. Cosa facevi esattamente in banca? Ma lavoravo in un ufficio estero, facevo il mercista, controllavo documenti di viaggio internazionali. Ok, quindi si definisce genericamente bancario, giusto? Nel senso che lavori in banca. Beh, bancario, va bene, inutile andare lì tanto... No, te lo dico perché io fino a qualche anno fa facevo differenza tra il bancario e il banchiere. In realtà la differenza è piuttosto grossa. Proprio bancario, bancario. Proprio bancario, bancario. Poi ci pensa Barisoni a spiegare meglio la differenza tra bancario e banchiere. Ubaldo, invece la tua mamma, Libia, primo perché si chiamava Libia? Libia perché è nata nel 1910 e quello era il periodo della Libia, per cui la levatrice quando è nata ha chiesto a mia nonna, senti... Metti il nome Libia perché adesso Libia è un nome che va per la maggiore. Ah, ok. C'è ancora la tua mamma o non c'è più? No. Sono ormai 20 anni che non c'è più. Ok, e che ricordo hai di lei, Ubaldo? Spettacolare, mia mamma era una donna per me eccezionale. Una donna semplice, ma sapeva raccontare bene le cose, era di buon cuore. E io sono innamorato ancora di mia madre. Questo non lo diciamo a tua moglie, però. No, ma lo sa, ma sono innamorato anche di mia moglie. Ah, perfetto, sì, ok. Sì. Giusto, l'amore è moltiplicabile, non si sottrae. Con queste due donne. Ok, tua moglie invece è lì e si cura di te e del tuo occhio, mi auguro. Sì, addirittura lei mi legge. Una delle nostre passioni è la lettura dei libri ed è lei che mi legge, diciamo, un libro al mese, ecco. Cioè, te lo legge ad alta voce? Ad alta voce. Ma è una cosa, sembra una cosa d'altri tempi questa quasi. No, però è una cosa splendida. Qual è il libro che ti sta leggendo adesso? Adesso abbiamo appena finito Noi, di un autore inglese, che ho trovato molto bello. Noi, hai detto? Noi, sì, di un tale Nichols. Noi, proprio prima persona plurale. Noi, sì. Ah, Nichols è quello di Un giorno, un... Vabbè, sì, ho capito chi è, poi adesso ce la facciamo. Magari Miriam ce lo pubblica su Facebook, così, giusto per farle fare qualcosa dalla redazione, là in via Montrata 91. Ubaldo, invece, tu, adesso che sei in pensione, come passi il tempo? Che cosa fai durante la giornata? Ma noi camminiamo molto, e poi adesso ho fatto una piccola scoperta, che sono le biciclette pieghevoli da tenere nel bagagliaio della macchina. Certo, quelle che chiudi e... Certo. Sì, in un momento si aprono, si chiudono, sono facilissime. E cosa te ne fai esattamente, scusami? Cioè, che raggiungi dei posti che non puoi raggiungere in bici e da lì usi la bici sostanzialmente? Sì, non so, Pordenone è messo in un bel posto perché siamo a 50 km dal mare, 40 km dalla montagna, abbiamo tanta pianura, stradine, un sacco di piste ciclabili, per cui ci si sposta fuori da Pordenone e riusciamo a girare bene, ci divertiamo un sacco, e anche in modo economico, insomma, zaino, panino, una birretta e via. Ubaldo, prima di salutarti, visto che la tua storia ci ha permesso di fare una puntata che è dedicata a quei gesti gratuiti che però hanno un valore enorme, no? Nel senso che la storia della tua mamma racconta proprio quella cosa lì, del fatto che due tizi si scambiano con un cenno, fanno due cose che sono di grande valore l'uno per l'altro, e tutto gratuitamente. Tu ti ricordi qual è stato il gesto gratuito che ha fatto con te la tua mamma, che in qualche modo ti è rimasto e ha un valore ancora enorme per te? Mi è sempre stata vicina. In qualsiasi momento mia madre c'era. E questo, Ubaldo, è un gesto continuo, ecco. Tu, questa è la prima storia che tu ci mandi, vero? Voi siete qui? Sì, io non scrivo di solito. Ok, quindi ti ringraziamo per averlo fatto riproposito e per averci ricordato appunto quel gesto lì di tua mamma. Ubaldo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, riguardati l'occhio. Sì, signore, grazie. Ciao. Qualche tempo fa ho letto un libro, che è un libro di un economista americano, che si chiama Michael Sandel. Si intitola Quello che i soldi non possono comprare. Questo sì, l'ho messo io sul profilo Facebook, se volete vederlo, non l'ho neanche chiesto a Miriam. È un saggio in cui lui spiega che la nostra società è passata dall'essere un'economia di mercato ed è diventata una società di mercato, in cui tutto sostanzialmente si basa sullo scambio economico. Tu mi dai questo e ottieni questo. Questo tizio, che è un economista ma anche un filosofo, racconta che oggi perfino i posti in coda si possono comprare. Quindi, se uno vuole fare la coda per un biglietto ad un concerto, ad esempio, può pagare qualcun altro, che di solito è meno ricco di lui, che sfrutti il proprio tempo per risparmiare il tempo di un altro che se ne sta a casa mentre lui fa la coda. In America, ad esempio, esistono delle autostrade per il risparmio energetico e per motivi ecologici, che hanno corsie dedicate ad auto con più di due passeggeri, quindi solo le auto con più di due passeggeri ci possono andare. Però pagando un biglietto le si può percorrere anche da soli. Sandel sostiene che si è generata quella che lui definisce la skyboxificazione della vita, e la spiega così. Un tempo si andava allo stadio a vedere una partita e che uno fosse ricco oppure no, certo poteva avere un posto migliore rispetto a un altro, ma se faceva freddo tutti soffrivano al freddo, se faceva caldo tutti soffrivano il caldo. Se pioveva, tutti si bagnavano e tutti mangiavano comunque gli stessi panini che vendevano sugli spalti. Insomma, lo stadio era una sorta di metafora democratica della vita. Da qualche anno, invece, negli stadi, in Italia e all'estero, ovviamente, sono nate le skybox, cioè degli spazi chiusi, protetti, con una vista ottima sul campo, che hanno dei prezzi molto alti e dove si gode una vista migliore. Se fa caldo c'è l'aria condizionata, se fa freddo c'è il riscaldamento, se piove non ci si bagna e il cibo è di ottima qualità. Insomma, in soldoni, non è più vero che allo stadio si gode un'esperienza uguale per tutti. Lui sostiene che questa metafora vale anche per la vita delle persone, per cui chi ha più soldi sta molto meglio di chi non ce li ha. Ma soprattutto lui dice, se tutto ha un prezzo, chi sta meglio può arrivare a comprare qualcosa che chi sta peggio può decidere di vendere, come un pezzo del proprio corpo, come il proprio utero, come un rene, ad esempio. Sto raccontando questa storia, questa cosa, oggi, nella stessa puntata in cui abbiamo raccontato la storia di Ubaldo e di sua mamma, perché Sandel, nel suo libro, dice anche che l'unica cosa che i soldi non possono comprare sono proprio i rapporti umani. Cioè sono le relazioni tra le persone, cioè sono la cosa che rende la vita a volte migliore, a volte no, ma in generale meno sola. E questo anche e soprattutto perché sono gratuiti. Non c'è nessun prezzo applicabile all'amore di un genitore per un figlio, ad esempio, o all'affetto per un parente o un amico. Ma anche tra due persone sconosciute, di nazionalità diverse, che non parlano la stessa lingua e che quindi non si capiscono se non con pochi gesti, basta un gesto gratuito per generare un riconoscimento immediato tra gli esseri umani, ai quali alla fine servono le stesse cose, piacciono le stesse cose, vivono e muoiono per gli stessi identici motivi. E riconoscerlo permette a tutti di sentirsi un po' meno soli. E alla fine della storia di Ubaldo ho capito che, primo, i tedeschi non erano tutti cattivi come li raccontavano. Secondo, Libia è un nome bellissimo per una donna. Terzo, c'è stato un tempo in cui una bottiglia di benzina valeva quanto due pagnotte. Quarto, scegliere in fretta non è sempre un azzardo. E quinto, la parola gratis è una parola molto sottovalutata. Una redazione che funziona anche remotamente. Noi da qui, da Matching alla Fiera di Rho, e invece Miriam Lucchetti da Milano, che pubblica immediatamente sul nostro profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio 24, il libro di cui ha appena parlato Ubaldo, che di fatto ha letto grazie a sua moglie che gliel'ha letto. Noi di David Nichols, che è proprio quello di Un Giorno, se non ci siamo sbagliati io e Bonini. E niente, abbiamo finito anche da qui e ridiamo la linea a Oscar Giannino. Io ringrazio tutti quelli che sono qui, Davide Ciocia e il suo orologio, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e addirittura le persone che sono ferme fuori. Autografo? Va bene, quando usciamo, quelli che sono arrivati apposta per vedere questo pezzo di programma, questo pezzo di radio in diretta da qui. Grazie soprattutto a Ubaldo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Michele, vivo in provincia di Milano. La storia di domani è la mia e parla di una di quelle volte in cui si trova in mezzo alla storia, quella con la S maiuscola, ma in quel momento non te ne accorgi. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.